Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Allora, rieccoci, una nuova settimana, 16:34, Luca Tremolada al microfono. Oggi è il turno di Guido Romeo, buongiorno, finalmente. Buongiorno. Da viaggi americani e scandinavi, torna qui da noi in studio. Chi abbiamo oggi in studio? Nessuno. Però qual è la storia da raccontare? La storia da raccontare è quella della prima azienda agricola italiana che non ha più emissioni, cioè inquina più nell'atmosfera. Quindi che non emette più CO2, l'abbiamo trovata, probabilmente c'è anche stato il nostro Guido Romeo. Cercheremo di capire che cosa vuol dire essere un'azienda agricola a zero emissione, cercheremo di capire quali sono le voci in termini di emissioni più costose per l'ambiente. Che cosa significa tra l'altro venderlo zero emissione, quanto costa anche. Quanto costa vendere, insomma vedremo di capire un sacco di cose sull'ecologia e sull'ambiente, ma prima le news. La guerra fredda informatica costa complessivamente 6,3 milioni di dollari. È quanto emerge dal rapporto Nel Mirino, l'infrastruttura critica nel periodo della guerra informatica, commissionato dalla McAfee al CSIS, Center for Strategic and International Studies. A farne le spese sono soprattutto le infrastrutture critiche, ossia i sistemi a rete che consentono la normale vita di un paese, come il trasporto di persone e merci, reti idriche ed energetiche, telecomunicazioni e dati. Continua l'affare Google-Cina. Il motore di ricerca, scrive una Reuters, ha reso noto oggi che è ancora impegnata in colloqui con il governo cinese sulla questione della censura imposta al suo portale web in lingua cinese, nonostante i segnali crescenti secondo cui la società potrebbe chiudere presto il sito. Le relazioni tra il maggior motore di ricerca al mondo e la Cina sono in stallo da due mesi, sulle restrizioni imposte a Internet e sulle denunce di Google di essere stata vittima di azioni di hacking, insieme ad altre società partite dalla Cina. Il cambiamento climatico è una bomba ad orologeria, ma con un impegno urgente e concreto a livello globale possiamo ancora disinnescarla. Lo ha affermato oggi a Roma James Hansen, il grande climatologo della Columbia University. Secondo Hansen, per evitare effetti disastrosi e insospettati su tutti i sistemi economici e sociali e sui sistemi naturali che sono alla loro base, la concentrazione di CO2 in atmosfera non dovrebbe oltrepassare le 350 parti per milione, ma siamo già a 388 e la differenza tra l'energia solare che entra nel nostro sistema climatico e quella che ne esce non dovrebbe superare un watt per metro quadro, ma siamo già a 1,6. Io e Guido Romeo stavamo commentando quest'ultima notizia, insomma, che rilancia a bomba, che rilancia un po' i temi di Copenaghen, che rilancia soprattutto i temi della misurazione del riscaldamento climatico e della scientificità. Com'è che si dice? Scientificità. Vabbè, dei dati. E insomma, cioè, che dici? Direi che siamo, insomma, è stato il prologo ideale a quello che andiamo a raccontare adesso. Perché insomma, se tutte le emissioni contano, ci sono anche quelle dell'agricoltura e le persone che oggi sono con noi hanno cominciato proprio da queste. Credo che la cosa più interessante, poi come vedremo, è che le hanno integrate anche, anzi soprattutto le hanno integrate in una visione di azienda, qualcosa che sta sul mercato. Ma infatti, cioè, l'ospite che noi abbiamo in collegamento da Bologna, Lorenzo Fasola, è CEO. CEO tra l'altro è un termine che noi mutuiamo di solito dalle aziende high tech da un certo punto di vista. CEO dell'azienda di Castelmonte Vibiano Vecchio, ho detto giusto? Beh, poi sì, grosso modo, Castelmonte Vibiano Vecchio, infatti è purtroppo un nome molto difficile, specialmente per noi che andiamo all'estero. Ma, e che si comunque trova dove esattamente? Allora, noi siamo in Umbria, esattamente al centro tra Perugia e forse direi Todi, per essere chiari. Perché che altro quando andiamo all'estero diciamo sempre che siamo in between, cioè nel mezzo tra Firenze e Roma. Ah, perfetto. Perché Monte Vibiano poi è anche un borgo, mi sembra di ricordare, perché è stato un borgo restaurato anche come parte dell'azienda, no? Sì, sì, è anche questo un borgo, ovviamente non siamo più tantissimi gli abitanti, mi sa che arriviamo a 16, comunque ha la sua storia, tanto è vero che nasce dal primo secolo avanti Cristo ed è un bel pezzo, penso, della nostra Italia, della nostra Umbria, dove c'è una parte, la parte verso sud, che è completamente incontaminata, stupenda, e spero che possiate venirci a trovare presto perché ne vale la pena. Ecco, allora, Lorenzo Fasola, Bologna, sentiamo subito la scheda che ci racconta un po' l'operazione che lei ha attuato in questa azienda agricola e poi vediamo di commentarla subito dopo. Altissima qualità ma zero emissioni. È il risultato di oltre 10 anni di lavoro di Lorenzo Fasola, che da qualche settimana può vantarsi di dirigere la prima azienda agricola italiana e certamente una delle prime al mondo a zero emissioni di gas serra, secondo le certificazioni ISO 14064 della DNV. L'azienda Montevibiano, a 15 minuti da Perugia, oggi fattura circa 7 milioni di euro da olio e vino. Alla fine del 2008 Fasola aveva annunciato il suo obiettivo di scendere a zero emissioni con soluzioni interne all'azienda, cioè senza acquistare crediti di CO2 dall'esterno. Una scommessa che ha chiamato 360 Green Revolution e che l'ha impegnato su tutti i fronti, dal fotovoltaico al biodiesel, fino alle vernici anti-albedo sui tetti e a un sistema RFID per monitorare quante volte i trattori passano vicino alla stessa pianta. Oltre a favorire l'impiego di chi abita più vicino all'azienda, Fasola ha investito nel riutilizzo delle biomasse in collaborazione con l'Università di Perugia e in tecnologie d'avanguardia come un accumulatore di energia fotovoltaica che fa bella mostra di sé all'ingresso dell'azienda e permette di ricaricare scooter e auto elettriche. E tra qualche settimana, proprio da Montevibiano, partirà il primo tour enogastronomico a zero emissioni grazie ad auto elettriche caricate dall'energia solare. Allora, già i nostri ascoltatori stanno scrivendo, ricordo il numero degli sms 349-238-6666, è la parte scettica chiaramente che dice guardate che anche Arare produce CO2, che insomma provo a girarla in positivo la domanda, anzi neanche più di tanto in positivo, insomma che cosa avete fatto per arrivare alle zero emissione? Ed è vero che anche l'operazione di rompere la terra produce anidride carbonica. Ma allora, innanzitutto dalle parti tecniche, se ci fosse la DNV sarebbe più in grado di me di dare tutte le spiegazioni tecniche. Ma ci sarà la DNV subito dopo. Ah, l'ISO 14064 comunque è quella certificazione che in pratica fa come una bilancia tra negativo e positivo, quindi ci sono delle cose che come arare la terra è in negativo, nel senso che vengono emesse CO2, ci sono delle altre che catturano, per esempio ci può essere di dipingere di bianco i silos e quindi l'effetto albedo che riduce le emissioni di CO2, oppure le nostre foreste per noi sono state anche quelle parte vitale. Lei pensi che mio nonno, mio bisnonno, forse trisnonno sono degli appassionati di alberi, ne hanno piantati una marea e partendo da mio padre in questi anni oltre 10.000, io nel mio piccolo ne ho piantati 1.000 e quelli ovviamente servono anche a assorbire l'anidride carbonica. Ecco, ci spieghi che cosa vuol dire, cioè quanto costa diventare un'azienda a impatto zero e che cosa praticamente, che cosa consiste praticamente, insomma? Beh, io penso che quanto costa è un discorso abbastanza anche ampio e vasto, perché dipende anche dalla grandezza dell'azienda. Quello che noi abbiamo cercato di fare è che questo tipo di intervento è possibile sia per una multinazionale sia per una piccola azienda. Quindi il nostro poi, se devo essere sincero, è partito da un altro presupposto, perché noi siamo produttori di olio di vino e per raggiungere la qualità massima, che per noi qualità massima vuol dire cercare di fare il tuo meglio partendo ovviamente dal terreno e partendo dalle viti o dagli olivi, si arriva a raggiungere questa qualità soprattutto cercando di mantenere l'ambiente più sano possibile. Provo a girare la domanda che magari è più chiaro: che differenza c'è tra lei e un'altra azienda? Perché allora, finora non abbiamo capito in che cosa consiste, non ci ha detto quanto ha speso e non abbiamo capito qual è la differenza tra lei e un altro produttore di vino e di olio. Allora, innanzitutto questo si chiama 360 Green Revolution perché? Perché è stata fatta a 360 gradi, quindi le varie azioni che noi abbiamo fatto sono state molteplici, cioè dalla dismissione per esempio di 70 ettari destinati alla produzione di tabacco, che poi questa era una coltura altamente energivora. Lei pensi che 80.000 litri noi utilizzavamo all'anno soltanto di gasolio, poi è stato invece trasformato in 40 ettari di vigneto, il fotovoltaico abbiamo fatto 50 kilowatt nel 2009 e nel 2010 entreranno in funzione altri 70 kilowatt, e la gestione corretta dei boschi e la trasformazione da aceto ad alto fusto. Che vuol dire questo? Perché anche chi è che possiede dei boschi però li lascia in disuso e non riesce a far assorbire alle piante stesse il CO2, ovviamente c'è una riduzione nettamente minore. Adesso, per rispondere alla domanda quanto è costato, nel nostro caso specifico sicuramente sopra i 7 milioni di euro, però c'è stato un investimento di una cantina, c'è stato un investimento di un frantoio, c'è stato un investimento di 40-45 ettari di vigneto, altre 13.000 piante di oliveto e così via. Poi ci sono una marea, forse dovrei elencare migliaia, che alcune sono molto piccole. Nova Lab 24. E eccoci in studio. Tra l'altro io sto guardando su YouTube la segnalazione di Sergio, che ci ha mandato un link al suo sito di YouTube, poi vi faremo sapere. Noi abbiamo però in collegamento Zeno Beltrami, che è l'esperto della DNVUL, certificatore, l'ente certificatore europeo, quindi per le emissioni. Buongiorno. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Beltrami, le faccio subito una domanda, perché Fasola ci spiegava prima che cosa ha fatto, ci accennava appunto alle varie tecnologie, però giriamola dall'altra parte, che cosa avete certificato voi? E anche un po' la particolarità, perché uno dei modi che hanno le aziende di dire siamo a emissioni zero è anche quello di comprare questi famosi carbon offset, cioè di dire compro delle quote di CO2 e quindi vado in pari nel mio bilancio. Ma la situazione giù a Montevibiano mi sembra sia un po' diversa, o no? Sì, diciamo che i due aspetti principalmente innovativi dell'iniziativa riguardano il fatto di avere prima di tutto utilizzato le cosiddette, nella terminologia anglosassone, domestic reduction. Quindi hanno utilizzato fondamentalmente per fare il bilancio, che fra l'altro non è solo zero, è anche adesso positivo a loro favore nell'ultima tornata, perché il progetto è partito nel 2008, loro non erano ancora riusciti ad ottenere il bilanciamento delle loro emissioni nel 2008, poi nel 2009 sono riusciti addirittura a sopravanzarle, dicevo attraverso azioni domestiche, cioè senza far ricorso all'emission trading, cioè all'acquisto di crediti di riduzione derivanti magari da altri progetti. Perché poi spieghiamo che la logica di certe operazioni qual è? Io posso anche essere uno che produce come un SUV, però poi acquisto in alberi, in altrettanti alberi. Per quello cui... che fanno le compagnie aeree, esatto. Che offrono tante compagnie aeree. Esatto. Sì, diciamo che la cosa nasce in effetti dal punto di vista teorico non è ineccepibile, perché in realtà l'atmosfera è una sola, il bilancio della CO2 deve essere ovviamente uno solo, e quindi se c'è qualcuno che fa qualcosa di virtuoso in una parte del mondo, gli effetti benefici possono poco prima c'era quella notizia relativamente ai cambiamenti climatici, no? E quindi gli effetti dannosi o positivi possono avvenire in un'altra parte del mondo, e quindi da questo punto di vista è ineccepibile. È vero però che se colleghiamo questo discorso al discorso squisitamente di qualità, di sostenibilità economica, soprattutto relativamente all'industria italiana, quindi fatta di piccole iniziative, magari di grande eccellenza, è chiaro che fare qualcosa con le proprie azioni e con le proprie forze assume un valore che va un po' al di là del discorso del protocollo di Kyoto. Ecco, Beltrami, però solo una domanda, ma giustamente un ascoltatore da Torino ci dice sì, è una bella operazione d'immagine, però insomma l'agricoltura normalmente ha un saldo di anidride carbonica positivo, cioè nel senso, provo a dare un'altra visione, insomma raramente le aziende agricole hanno un impatto dannoso o molto dannoso o quantomeno paragonabile a quello di un'industria manifatturiera classica. Questo lo chiedo a Bologna. Allora, innanzitutto purtroppo, e questo la DNV ne potrà essere testimone, noi pensavamo che eravamo in questa situazione, ossia positiva, che non emettevamo CO2, ma come diceva quell'ascoltatore prima, che arando la terra si emette CO2, e per esempio nel nostro caso che avevamo 70 ettari di tabacco, il quantitativo di CO2 che noi andavamo a emettere era enorme per una piccolissima azienda, quindi in realtà purtroppo anche l'agricoltura, come tante altre aziende, emettono CO2. Però il nostro obiettivo onestamente non era tanto quello di arrivare a zero emissioni perché per una questione di immagine, perché a quel punto avremmo tranquillamente potuto comprare dei certificati verdi e dire siamo a zero emissione. In realtà queste sono delle azioni a 360 gradi per cercare di migliorare l'ambiente nostro per i prodotti olio e vino. Io vi voglio fare un esempio. Se noi prendiamo un bicchiere di vino e lo mettiamo su una stanza dove si fuma, un altro dove sta in un ambiente perfetto e sano e sterile, e dopo andiamo a rimettere i due bicchieri insieme e andiamo a annusare il vino dopo tre giorni, sicuramente quello dove si fumava ancora avrà l'odore di fumo, perché l'olio e il vino sono i due elementi in natura che assorbono tutto ciò che circonda. Ecco perché per esempio il biodiesel che noi stiamo utilizzando adesso passeremo addirittura alla seconda generazione, che è in odore. Quindi anche questo non solo per l'abbattimento di CO2, ma anche per cercare di migliorare, perché la cosa bella di questo progetto è che noi adesso siamo teoricamente a meno 700 tonnellate e non è che ci vogliamo fermare qui, perché alla perfezione non c'è mai limite, come nel vino e nell'olio. Io infatti mi ritengo molto fortunato perché faccio un lavoro secondo me stupendo, perché non si potrà mai dire di aver fatto la perfezione, e quindi dalla stimola ogni mattina di svegliarsi di come posso migliorare. Una domanda, Fasolo, una domanda velocissima. Lei è un imprenditore, ha una grande visione, anche un ambientalista, a questo punto abbiamo scoperto, ma il mercato apprezza il valore che lei dà al prodotto e quanto ci ha investito? Abbiamo sentito 7 milioni che non sono pochi. Brevissimo perché siamo in chiusura. Devo essere sincero, assolutamente no, però sarei anche dispiaciuto se qualcuno comprasse il vino o l'olio perché ha zero emissioni e non per la qualità, perché secondo me uno compra il vino perché gli piace. Poi certo, il discorso di arrivare a questo zero risponde emissioni in un certo senso al tema dell'immagine, cioè nel senso poi vale la qualità del prodotto, il sapore. Io la ringrazio anche perché è stato molto schietto. Noi ci sentiamo domani alle 16:30. Ringrazio Guido Romeo, ringrazio gli ospiti, a domani. Ciao, arrivederci. Nova Lab 24.